Dove sei? Dove sei? Ombra, sogno. Forse tra le onde azzurre del cielo. Dove sei? Dove sei? Vento, fuoco. Forse tu bruci le alghe del mare. Ed un mondo d'amore. Non resta più nulla. Mi restano le mani, soltanto le mie mani, protese nel nulla verso te. Forse tra le onde azzurre del cielo. Dove sei? Dove sei? Vento, fuoco. Forse tu bruci le alghe del mare. Ed un mondo d'amore. Non resta più nulla. Mi restano le mani, soltanto le mie mani, protese nel nulla verso te.